non sparate, mi distingo, non sparate, mi distingo. Mia signora, una parola, se la sposa, o brutto intrico. Maledetto la pistola, che trama così mi fa, maledetto la pistola, che trama così mi fa, che tremar così mi fa, che tremar così mi fa. Ma sentite il mio pensiero, io riman, signora mia, non credete, non ne verrà un pretesto, una bugia, non la voglio, signor, no, non la voglio, signor, no, non la voglio, signor, no, non la voglio, signor, no, non la voglio, signor, no. Mia signora, non sparate, io riman, mi distingo, signora mia, un brutto intrico. Maledetto la pistola, che trama così mi fa, maledetto la pistola, che trama così mi fa, che tremar così mi fa, che tremar così mi fa. Mia signora, ma sentite il mio pensiero, io riman, signora mia, non credete, non è vero, è un pretesto, una bugia, non la voglio, signor, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ah, che pezzo quella e questa, divenuto è la mia testa, o mia puntuna girandola, che corre insieme a volte folgoli, superaria se ne va, superaria, superaria se ne va. Oh, che pezzo quella e questa, divenuto è la mia testa, come appunto una girandola, che corre insieme a volte poi morì. Superaria se ne va, superaria, superaria se ne va, superaria se ne va.